Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Vedi, per noi gli italiani erano una porta verso l'Europa. I vecchi, quelli che hanno vissuto le varie epoche, mi dicono che i tempi in cui si viveva meglio erano quelli di Re Zog e degli italiani. Questa la risposta di Nicola, la guida che mi ha accompagnato in viaggio in Albania questo dicembre, a me, che gli chiedevo come gli albanesi ripensavano la passata invasione italiana. Io sono rimasta in realtà abbastanza confusa dalla risposta, perché l'ultima cosa che pensavo possibile fosse un buon ricordo della fallimentare esperienza coloniale fascista in Albania. Ma in effetti quei tempi sono molto distanti e dopo ci sono state altre esperienze che hanno lasciato altre ferite. Ciao a tutte e tutti, da Lara e Olga. Balloon è il programma di storia di e con Radio Città Fucico, fatto da Debs, Alessia, Jacopo e noi che siamo ai microfoni questa domenica mattina. In questa puntata cerchiamo di leggere la storia albanese approfondendo le relazioni con l'Italia. Per il racconto di questa puntata ci aiutiamo con dei romanzi di scrittori e scrittrici albanesi o di origine albanese. È un paese che ha avuto varie conquiste alle spalle, molto vicino a noi, ma decisamente poco conosciuto, anche per via dei 40 anni di completo isolamento durante il regime di Enver Hoxha. Un paese stalinista quando nemmeno la Russia lo era più. Un paese con una forte autoidentità nazionale, che viene descritta da Fabio Martelli nel bel libro Capire l'Albania, edito nel 1998 dal Mulino. Una cosa che mi ha colpito è la stratificazione delle epoche, dei conquistatori, delle fasi vissute dal paese, visibile e chiara nell'architettura e nell'urbanistica. Forse tra qualche anno non si vedrà più, cancellata dalla furia di ricostruzione e speculazione edilizia che sembra mangiare parti intere di Tirana. L'Albania fu occupata dall'Italia fascista il 7 aprile del 1939. Ma le ingerenze del nostro paese non sono iniziate con la guerra. In realtà, anche i governi liberali hanno avuto un ruolo forte nel dirigere l'Albania, subito dopo l'indipendenza dagli ottomani. Dopo 4 secoli di conquista ottomana, alla dissoluzione di quell'impero, il paese ottiene l'indipendenza, ma non è un'indipendenza semplice. Già prima della Grande Guerra, l'Italia occupa parte del sud del paese, per evitare la spartizione albanese tra Grecia e Serbia. Non tanto per buoni propositi, tanto per calcolo politico. Le potenze tendenzialmente riconoscono un'autorità italiana nella regione, anche se da parte albanese ci sono resistenze e disordini. Con l'avvento del fascismo le ingerenze aumentano. Nel 1925 si crea la Banca Nazionale d'Albania, con capitali quasi interamente italiano, oltre alla Società per lo Sviluppo Economico dell'Albania, istituti che se da una parte aiutavano la modernizzazione di uno dei paesi più poveri della regione, dall'altra erano un utilissimo strumento di controllo. Quando il re Zog si autoproclama re, con l'assenso italiano, e cerca di rendere il paese un po' più autonomo rispetto agli italiani, la sospensione del prestito è un motivo più che sufficiente per fargli cambiare idea. Di fatto, tutta la struttura civile e militare era nelle mani degli italiani, che potevano così mostrare il volto buono del regime. Gli obiettivi finali, soprattutto dagli anni 30, erano però quelli che ritroviamo negli scritti di Galeazzo Ciano. Il posto dell'Albania nella comunità imperiale di Roma era quella di una colonia di popolamento dove far andare ad abitare milioni di italiani, dopo aver fatto infrastrutture e bonifiche. Una fonte di materie prime per l'economia autarchica dell'Italia e uno strumento per controbilanciare l'espansionismo tedesco da un lato e gli jugoslavi dall'altro. L'Albania fu l'unico paese ad essere invaso nel 1939 da parte degli italiani senza l'apporto tedesco e prima dello scoppio della guerra. Doveva essere il fiore all'occhiello dell'Italia fascista, la riprova di quanto gli italiani e i fascisti erano capaci nei confronti dei propri territori occupati. Il generale dunque era raggiante e non riusciva neppure lui a spiegarsi la ragione di quella improvvisa vampata di benessere. Era la gioia del viaggiatore che trova rifugio dopo un percorso burrascoso. Ebbe d'un tratto coscienza della propria forza, I corpi di decine di migliaia di soldati sepolti sottoterra aspettavano da tanti anni la sua venuta, ed eccolo finalmente arrivato, come un nuovo messia, abbondantemente provvisto di carte topografiche, di elenchi, di indicazioni infallibili per trarli dal fango e restituirli alle loro famiglie. Erano stati altri generali a portare alla disfatta e alla distruzione quelle interminabili colonne di soldati. Lui, invece, veniva a strappare all'oblio e alla morte quel poco che ne rimaneva. Sarebbe corso da un cimitero all'altro, avrebbe cercato su tutti i campi di battaglia per ritrovare gli scomparsi. Nella sua lotta contro il fango non avrebbe conosciuto sconfitte, aveva dalla sua la forza magica che conferiscono le statistiche esatte. Rappresentava un grande paese civile e la sua opera doveva essere piena di magnificenza. Il libro di Ismail Kadare è stato scritto nel 1963. L'autore è tra gli scrittori più importanti del paese. Il generale dell'Armata Morta parla di un generale e un prete italiani che viaggiano 2 anni in Albania con il mandato ufficiale di riesumare tutti i cadaveri dei soldati italiani per ridare le spoglie alle loro famiglie. Un romanzo del realismo socialista, ma che ha anche qualche richiamo al teatro dell'assurdo, sia per alcuni dialoghi, ma anche per la missione stessa, quella di ricostruire un esercito di morti da riportare a casa. Le avventure per la ricerca dei soldati vengono intervallate da racconti della guerra passata, ragionamenti sul popolo e sul paese, che il generale e il prete ripercorrono in quanto invasori falliti. L'esperto albanese procedette alle formalità d'uso. Altre tombe apparivano più lontano, erano vicinissime al villaggio e recavano tutte in testa una stella rossa. Il generale riconobbe subito i cimiteri dei martiri, come gli abitanti del paese chiamavano i luoghi di sepoltura dei partigiani. Qui 7 suoi compatrioti erano stati sepolti accanto agli albanesi. Sulle targhette di latta ornate da una stella rossa si potevano leggere, zeppi di errori d'ortografia, i nomi di quei soldati, la loro nazionalità e la data della loro morte. La stessa per tutti. Su una lastra di pietra erano incise queste parole: «Questi soldati stranieri sono morti da eroi, combattendo al fianco dei partigiani albanesi contro le forze del Battaglione Azzurro, il 17 marzo 1943». «Sempre questo battaglione azzurro», disse il generale procedendo lungo i viali del cimitero. «È la seconda volta che capitiamo sulle tracce del colonnello Z. In base agli elenchi, 2 suoi uomini devono riposare in questo villaggio». Una vecchia con un bariletto sulle spalle mosse verso di loro. «Li portano via?» domandò a voce bassa. «Sì, li portano via», sussurrarono alcune voci. La vecchia, in piedi, sempre col fardello in spalla, guardava la scena come gli altri contadini. A un certo momento fece qualche passo avanti e si rivolse agli operai. «Ditegli di non metterli insieme agli altri. Li abbiamo pianti come i nostri, quelli lì, secondo la nostra usanza». Il generale e il prete si voltarono in direzione della vecchia, ma questa aveva già girato le spalle e si allontanava. Per un momento videro ancora il bariletto dondolarsi, poi la donna scomparve a un gomito del sentiero. L'8 settembre 1943 per i soldati italiani in Albania non è molto diverso da quello dei connazionali in Italia o in altri territori. L'improvvisa capitolazione, l'assenza totale di direttive, fa sì che siano lasciati totalmente a se stessi, in patria come altrove. In Albania alcuni dei soldati italiani si uniscono ai partigiani, altri disertano e finiscono a lavorare come contadini, mugnai, uomini di fatica per padroni albanesi. Altri scaricano la propria violenza e frustrazione, distruggendo interi villaggi. Dopo la fine della guerra, in Albania si instaura il regime comunista di Hoxha. È difficile parlare delle sue origini, perché Hoxha ha fatto totale terra bruciata di tutte le testimonianze e di tutti i protagonisti di quegli anni. Non si sa bene nemmeno com'è nata la prima cellula del Partito Comunista Albanese. Quello che si sa è che tutti i partecipanti, a parte Hoxha, sono morti. O uccisi in circostanze misteriose, o deportati e morti, o suicidati. Le morti hanno avuto inizio quasi subito. Nel 1941 Kemal Staffa, importante fondatore del Partito Comunista Albanese, viene ucciso dalla polizia fascista in un'imboscata in una casa di campagna, dove avrebbe dovuto incontrare in una riunione segreta proprio Hoxha. Il regime comunista albanese ha conosciuto diverse fasi e ogni fase ha accresciuto ancora di più il suo isolamento. La prima è stata quella jugoslavia, poi russa, poi cinese. L'apertura a Tito era confacente perché grazie ai comunisti jugoslavi è nato e si è rafforzato il Partito Comunista Albanese. Poi i jugoslavi sono stati visti come nemici e ci si è volti verso i russi, grazie ai quali arrivarono molti investimenti nel paese. Dopo la morte di Stalin e la destalinizzazione, Hoxha decide che la Russia è un paese collaborazionista e imperialista e ogni rapporto con lei è rotto. Si intrecciano relazioni con la Cina, ma anche qui, negli anni 70, si rompe qualsiasi rapporto. Dagli anni 70 al 1985, anno in cui Hoxha muore, l'Albania è completamente isolata. Un paese così piccolo e così isolato conosce una povertà estrema. Le file per comprare il cibo durano ore ed è come se ci fosse un'economia di guerra in tempo di pace. Rimangono oggi due simboli fisici della propaganda di Hoxha, i bunker e i lapidari. Si trovano ovunque in Albania, a distanza di pochi chilometri l'uno dall'altro. I bunker venivano costruiti per dare l'impressione di una nazione costantemente sotto attacco imperialista, con l'idea che da un momento all'altro qualcuno volesse invadere e soggiogare il paese, la propaganda tramite la paura. I lapidari erano un modo per plasmare e definire l'uomo e la donna albanesi, liberati con l'azione partigiana e compiuti con la società socialista, la propaganda tramite l'immaginario. In tutto questo, l'unica finestra sul mondo fuori dall'Albania che non passasse per la censura e la propaganda era la televisione italiana. Ancora oggi associo i nostri sforzi di scoprire qualcosa del mondo esterno con Daiti, il nome dell'isolata montagna che circonda la capitale e ne domina il paesaggio, come se l'avesse accerchiata e la tenesse in ostaggio. Geograficamente era distante da noi, eppure era onnipresente. Io non c'ero mai stato. E non mi era per niente chiaro cosa significasse ricevere Daiti. Chi riceveva cosa, da chi e come? Oggi presumo che da qualche parte lassù ci fosse un ripetitore satellitare o televisivo. Daiti era in tutte le case, in ogni conversazione, nei nostri pensieri. L'ho visto ieri sera su Daiti, significava ero vivo e ho violato la legge. Stavo pensando, per 5 minuti, un'ora, un giorno intero, per tutto il tempo in cui Daiti era stata con noi. Quando mio padre non ne poteva più dei programmi della televisione albanese, annunciava «Vada a vedere se si riesce a ricevere Daiti». Dal suo rapporto con l'antenna, il dramma psicologico, la dinamica di attrazione e repulsione, il precario equilibrio fra trionfo e sconfitta, dipendevano tutte le vitali informazioni dall'estero, accessibili alla mia famiglia. Dall'attentato a Papa Giovanni Paolo II, alle voci sul divorzio di Albano e Romina Power, dopo l'ultimo Festival di Sanremo. Il libro di Lea Ipi del 2022, tradotto e pubblicato da Feltrinelli, è un racconto autobiografico, ma in realtà riesce ad essere molto di più. Metà del libro racconta della sua infanzia, della vita sotto il regime, ed è una narrazione in fondo dolce, non nostalgica, ma che richiama le certezze dell'infanzia, paradossalmente le certezze su buoni e cattivi che una dittatura può dare. La seconda parte, quella in cui il regime cade e scopre le verità taciute sulla sua famiglia e sulla realtà che l'ha circondata finora, è più frammentata, a tratti crudele, così come gli anni di caos dell'Albania, gli anni 90. Un libro assolutamente da leggere. In passato venivi arrestato anche solo per aver pensato di andartene. Adesso che in patria nessuno cercava di fermarci, dall'altra parte non ci volevano più. Non era cambiato niente, solo le uniformi delle guardie. Rischiavamo di essere arrestati non in nome del nostro governo, ma di quello degli altri, gli stessi che prima ci avevano spronati a tagliare i ponti col passato. L'Occidente era stato decenni a criticare l'Est per le sue frontiere chiuse, finanziando campagne per esigere la libertà di movimento, condannando come immorali gli stati che limitavano il diritto di espatrio. I nostri esuli venivano accolti come eroi, adesso li trattavano come criminali. Ma forse la libertà di movimento non era mai stata il vero obiettivo. Era facile difenderla quando c'era qualcun altro a fare il lavoro sporco del carceriere. Ma che valore può avere il diritto di uscire se non hai quello di entrare? E com'era che i muri e il filo spinato, giudicati tanto riprovevoli quando servivano a trattenere la gente all'interno, erano diventati legittimi adesso che lo scopo era tenerla fuori? I soldati schierati sui confini, le guardie costiere, la detenzione e repressione sui migranti, sperimentati per la prima volta in quegli anni, nell'Europa meridionale sarebbero diventati la prassi nei decenni a venire. Un simbolo dei rapporti tra Italia e Albania degli anni 90 è la Vlora. Ne parliamo con Roberto Ciccarelli, giornalista e firma del Manifesto, che era a Bari in quegli anni. Che cosa è stata la Vlora? Cos'è stato quell'episodio? La Vlora arriva primi di agosto del 91 a Bari con circa 30.000 persone. È arrivato all'improvviso a Bari dal nulla. C'era già stato un notevole episodio nel marzo precedente a Brindisi, questa volta, ma la gestione di questa emergenza fu radicalmente diversa. E innanzitutto perché fu istituito in una città deserta, nella calura agostana, un vero e proprio stato di polizia. Tutte le persone, o gran parte delle persone, che inizialmente non riuscirono a fuggire, anche grazie all'aiuto della popolazione locale che manifestò in alcuni casi un ammirevole senso della solidarietà su persone mai viste, mai concepite, perché stiamo parlando dei mesi in cui cadeva la cortina di ferro. È un cambiamento di epoca e cambia tutto in una città deserta con 40-45 gradi, come potete immaginare. Davanti alle prime scene dell'arrivo nel porto di Bari, ero casualmente da solo a casa, perché sono nato a Bari, mi trovavo in quei giorni da solo a casa, prendo la bicicletta e vado al porto e scopro che non c'erano i cellulari, non c'era l'informazione in tempo reale. Circa 30.000 persone erano state portate a 300-400 metri dal molo di attracco della Volora dentro lo stadio delle Vittorie e chiuse lì dentro. Fu come poi scrisse nel 95 in Homo Sacer Giorgio Agamben, il primo esperimento di lager, questa volta per migranti, anche se però gli albanesi all'epoca non si chiamavano ancora migranti, ma erano vita nuda, persone di nessuno, non persone, erano state chiuse, sigillate dentro uno stadio. Ecco, vi sto raccontando una storia che ha una funzione di rottura epocale, di discontinuità assoluta, dopo la quale la storia non è più stata la stessa. È l'archivio vivente di ciò che è successo dopo, fino alla strage di Cutro sulle spiagge della Calabria di pochi giorni fa. Tutte le forze di polizia in campo, accampamenti della Croce Rossa, della Protezione Civile, dei volontari, soprattutto delle reti delle solidarietà cattoliche della città, erano già lì. Anche loro avevano questo sguardo sbalordito, dove la realtà si rivelava inaspettata e violentissima. Per capire di che cosa sto parlando, vi consiglio la visione del film di Daniele Vicari, La nave dolce, del 2012. La Volora è fondamentale per capire tutte le politiche della Fortezza Europa. È il campo di concentramento dello stadio della Vittoria, lo è altrettanto, perché lì si è formato l'immaginario politico delle classi dominanti europee. È il caso che ha forgiato tutta la strategia di contrasto dell'immigrazione, che da allora sarebbe diventata clandestina. Questo che vi sto raccontando è una storia completamente rimossa, non solo dalla memoria italiana, ma dalla memoria di Bari e della Puglia, delle giovani e meno giovani generazioni. Tutti vi diranno che la Volora e gli albanesi nell'agosto 91, attenzione alle date, sono stati accolti a braccia aperte, ed è questa la prova dell'accoglienza della città, della regione, dell'italiano che è brava gente. È una memoria completamente falsa, risultato della sovrapposizione con quelle che, come dicevo prima, successe pochi mesi prima, nel marzo 91 a Brindisi, dove effettivamente i 20.000 che arrivarono con un'altra nave furono accolti inizialmente e poi smistati in tutte le regioni italiane e aiutati presso un meccanismo di prima accoglienza che all'epoca non si chiamava nemmeno così, perché potete immaginare che cosa significhi l'arrivo in un solo colpo, all'improvviso, senza nessun tipo di precedente, di 20, 30, 40 mila persone in un colpo solo. Ed è fondamentale anche per capire che cosa è accaduto a Bari nell'agosto, che il Presidente della Repubblica era Francesco Cossiga, persona personaggio che in quel momento maturava la sua, aveva già in realtà maturato la sua vocazione sedicente di picconatore della Prima Repubblica. C'era un governo democristiano. L'episodio del marzo probabilmente fece capire che una volta caduta la cortina, perché queste persone partivano ed erano lasciate partire, nella prima crisi politica sistemica albanese, che poi ne sarebbero venute altrettante negli anni successivi, questo segnò anche un drastico cambiamento nella compagine di atteggiamento, nella compagine governativa, che aveva tra l'altro proprio in quei mesi inaugurato la prima legge sistematica sull'immigrazione, la legge Martelli. Cossiga, dopo le prime ore, arriva a Bari, in virtù dei poteri conferiti dalla Costituzione, prende in mano lui le operazioni e, avendo trasformato, diversamente da quanto era accaduto a marzo, nell'agosto, quel problema come un problema di sicurezza nazionale, entra in campo l'esercito, il Presidente della Repubblica sospende tutti i poteri locali, tra cui anche quello del sindaco, del prefetto, del questore, e coordina lì i lavori. Tutte le persone, probabilmente gli diedero anche qualche soldo, furono prese dallo stadio, messe su un aereo e riportate in Albania. Vi sto parlando di un ponte aereo inedito, mai visto probabilmente dalla fine della Seconda Guerra Mondiale in tutt'altre situazioni, mai da allora più applicato. La persona che avvertì il drastico cambiamento di situazione politica denunciò il trattamento disumano riservato agli albanesi rinchiusi nello stadio delle Vittorie, in questo campo di concentramento, fu il sindaco di Bari Enrico Dalcino, dello stesso partito del Presidente della Repubblica Cossiga, cioè la Democrazia Cristiana, che il 13 agosto del 91, in un'intervista direi celebre rilasciata al Manifesto, chiama lo stadio della Vittoria così trasformato lager. Ciò provocò una delle tante reazioni inconsulte del comandante in capo, Cossiga, che lo umiliò. Dalcino, secondo me, è un eroe civile, ricordato anche giustamente con un monumento nel quartiere San Girolamo di Bari, ma pur sempre all'interno di una narrazione completamente sbagliata dal punto di vista storico. Dalcino è un eroe civile perché si è opposto allo stato di emergenza, allo stato di polizia, alla violenza contro la vita nuda degli inermi, di coloro che scappavano per la loro libertà e che sostanzialmente anche in silenzio, con la loro stessa presenza, diciamo, nessun umano è illegale in questo mondo. E invece viene celebrato come colui che è stato il campione di una città, di una regione accogliente, cosa che non è mai stata. La memoria è fondamentale, ma dovrebbe essere considerata nella prospettiva politica che è stata, cioè quella della realtà di quei momenti. Lea Ipi nel suo libro ha scritto: per alcuni partire era una necessità a cui davano il nome di transizione. E non è un caso che questa parola sia sostanzialmente il titolo del libro di Paitim Statovci, Le transizioni, che è stato pubblicato in Italia da Sellerio nel 2020. Paitim Statovci è nato in Kosovo nel 1990 e poi è cresciuto in Finlandia, dove si è trasferito con la famiglia fuggita dalla guerra quando lui era ancora molto giovane. Ha pubblicato un romanzo d'esordio nel 2014 che in italiano si intitola L'ultimo parallelo dell'anima e poi Le transizioni, appunto. In questo romanzo la fuga dall'Albania, dalla devastazione, della fine della dittatura, dalla guerra civile e dalla povertà è un po' rappresentata come un'opportunità, non solo per sopravvivere, ma anche per reinventare se stessi. Le transizioni infatti sono modi di inventarsi, di rifondare altrove la propria identità e nella storia l'autore gioca con diverse identità, identità nazionali, di genere e le identità degli altri, di amici, di amiche, di amanti. Bujar è il nome del protagonista che esplora proprio i generi, esplora il proprio desiderio e diversi ruoli anche che gli vengono richiesti dai padri partner e dalla società e con queste le diverse responsabilità che ne conseguono e di volta in volta è amico, figlio maschio, fratello, rifugiato, fidanzato, padre, preda sessuale, prostituta, amica, confidente, fidanzata e poi di nuovo fidanzato. Il legame con le origini, con l'Albania, con la propria terra si trova nella costellazione di storie e leggende che di tanto in tanto riporta dai racconti del padre di Bujar. Il padre di Bujar è il pater familias che muore improvvisamente lasciando moglie e figli piccoli, un maschio e una femmina, come incapaci di sopravvivere senza di lui. Preda della malavita, della malattia e dello sfruttamento. Come se il destino del nucleo familiare della sua famiglia, della famiglia di Bujar, fosse un po' in corrispondenza con il destino dell'Albania, del suo paese, dopo la morte di Enver Hoxha. E da questa fine comune inizia la diaspora di un popolo, del popolo albanese, incarnato appunto dalla fuga e dalla migrazione di Bujar nel resto del mondo, in Europa ma anche negli Stati Uniti e ritorno. La prima tappa di Bujar è Roma, in cui appunto capisce di essere invisibile, di essere indesiderato, di essere disprezzato, conosce proprio la dimensione del rifugiato in Italia e da qui iniziano le sue transizioni nel resto del mondo. È un libro estremamente crudo, concreto e reale e finalmente un po' fuori da una visione coerente, un po' compatta della storia dell'Albania e di chi sono gli albanesi. Questa è la voce, insieme a quella di Lea Ipi, di una nuova generazione che ha vissuto, tra virgolette, la fine della storia e che è capace anche di raccontare storie impreviste, complesse e non rassicuranti, diciamocelo. Infatti Bujar non sembra particolarmente interessato, neanche l'autore, sembrano particolarmente interessati a scegliere in modo definitivo una categoria, una nazionalità, un genere, un'etichetta e quindi seguiamo la protagonista in un continuo spaesamento culturale e in un'ampia dimensione queer che si allarga anzi costantemente. Terminiamo qui questa puntata, in cui speriamo di avervi fatto venire un po' più di curiosità sul nostro vicino d'Adriatico. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata, sempre domenica alle 11, sempre su Radio Città Fucico, oppure inizio settimana in podcast su www.radiovallun.info. Ciao!